7 dicembre de Il giornalino di Gian Burrasca. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Riccardo Fasol. Il giornalino di Gian Burrasca, di Vamba. 7 dicembre. È l'ottava minestra che mangio in due giorni, e tutte di capellini. Io domando se anche ai tempi dell'Inquisizione si è mai pensato a infliggere un sì terribile supplizio a un povero innocente. Ma tutto ha un limite, e io comincio a ribellarmi a questa indegna persecuzione. Un'ora fa sono entrato in cucina nel momento in cui Caterina non c'era e ho messo una manciata di sale nella cazzeruola dove era a cuocere lo stufato. Il bello è che oggi c'è a pranzo anche l'avvocato Maralli. Meglio così, io in camera mia mangerò la mia nona minestra di capellini, ma loro non potranno mangiare il loro stufato. Oggi, dopo aver trangugiato la minestra, non ho saputo resistere alla curiosità di vedere che effetto faceva lo stufato con tutto quel sale, e sceso al pianterreno sono andato a far capolino all'uscio della stanza da desinare. È stato un bene, perché così ho potuto ascoltare una parte di conversazione che mi interessava da vicino. «Dunque», ha detto la mamma, «domani l'altro bisognerà alzarsi alle 5». «Sicuro», ha risposto il babbo, «perché la carrozza sarà qui alle 6 precise e per andar lassù ci vogliono almeno un paio d'ore. La funzione durerà una mezz'oretta e così prima dell'11 saremo di ritorno». «Io alle 6 precise sarò qui», ha detto il Maralli. E voleva dir di più, ma in quel momento ha messo in bocca un pezzo di stufato e si è messo a tossire e a sbuffare come se avesse ingoiato un mulino a vento. Tutti si sono messi a dire «Che è? Che cos'è stato?» «Ah, assaggiatelo!» ha risposto l'avvocato. L'hanno assaggiato e allora è stato un coro generale di tosse e starnuti e tutti hanno incominciato a urlare «Caterina! Caterina!» Io non ne potevo più dal ridere e sono scappato in camera mia. Vorrei sapere dove anderanno tutti domani l'altro alle 6 di mattina in carrozza. Credono di farla a me, ma io starò allerta. Fine del 7 dicembre.